lunga stagione, sì forte mi amate. Dall'ora che fui cavaliere. Per la perfetta fede a me dovuta dite. Ondevi venne questo profondo amore che in me poneste?